verso sinistra e inizia a mettersi verso il discesone tutto alterato. Sì, la conosco. La conosco, ho capito, e sì, che dopo arriva a far discesione, servizio per Ardara, sulla destra, poi fa il curvone, va verso il rifornitore, diciamo, lì di come cavolo si chiama, prima di, del bivio dei fili, dai. No, fa il dispositivo, ma quello lì è già giù, Va bene, lo so che è giù, ma già mi sento lo stesso lì. Ebbene, il capo dispositivo, io sentivo accorgo quando era lì a San Napoli, a Vulcano, Bisio per Movesi, Movesi e Fisi, dai. Gappa. Adesso provo a chiamarlo, vedo dove è arrivato. Attento Domenico! Secondo Bisio di Arda, vedi, Mario. Adesso mi piglio il rettilineo per andare a Corso, come si chiama, a San Napoli, il rettilineo per andare a Meserio, va. Capo, adesso arriva lui a Meserio, so lì c'è il rifornitore, può proseguire sempre sulla sua sinistra, perché a destra vai per andare a Ozziri, e niente, se ne va verso Udia. Si conferma? Appa. Domenico! Alle coppie, Domenico! Guarda che il processo alberato lo perdi, Infatti, diciamo la verità, ci perdevamo in quel pezzo alberato, perché la zona molto negativa lì. Sì, no, perché è negativa, è in un buco. Vedi che gli danno fastidio. Gappa, si conferma. Sono esso dal pezzo alberato, lo ritorni a ripigliare. Gappa. Ruto! Sento che sto parlando, è lontano adesso, Non andare il trenino domenico, fallo andare! Non si è uscito in radio, Mario? Ho detto che non è tanto la lontananza, quanto quelle montagnette che gli danno fastidio. Infatti. E comunque adesso lo dovresti ripeccare, vicino a Meserio se lo dovresti ripeccare. Adesso provo a fare le chiamate a vedere. Attento Domenico! Domenico! Ma sei arrivato Domenico? Non c'è nessuno in presenza. Che vuoi che ti dica? Tutti bullshit. Tutti bullshit, non c'è ne uno che funziona. Ma ho fatto anche chiamata su 5 a cosa? Gianni Doppio Ru. Dove sei andato a travagliare stasera? Non lo so, guarda. Che di solito sale da Porto Torre, deve essere 7 e mezzo. Oggi non si è sentito. Vero, ho sentito un po' vera, buon cazzo. Poi ho sentito la cosa Massimiliano Bulldozer, perché era sul 16, mi ha sentito a me che stavo parlando con quella gringhella. E niente, adesso lui ha fatto un po' di carica, dice che entrava più tardi. Chiarissimo! Chiarissimo, Natalinos! Ma perché? Buonasera! Ciao, ben sentito in compagnia di Mario Balser e di Domenico Michele, sarà arrivato lì dopo il video di... di Ozzini, dai, direzione Umbria. Tutti e dopo Emers praticamente è alle porte dell'aeroporto di Urbia, vai. Infatti, dopo Enders c'è le porte dell'aeroporto, è vero. E si conferma, Mario. La conosco come le mie tasche, c'è la strada. Guarda, Mario, ci ho lavorato più di un anno lì io, capito? Le conosco, le conosco. Gatta. Si conferma, si conferma. Guarda, io per le vie della Sardegna già non mettendo, già le trovo tutte. Beh. Io, caricato hai Mario? No, mio figlio è andato a comprare il pane poco fa, le sigarette, e doveva portare anche il cane giù, quello fu internato di un cagnaccio. Perché carica le 9? Sì, 9:30, dai. Già va bene allora, è andata bene. Cassa di positivo. Adesso che ora si è fatta? Ma se lo dico, ma se vuoi. Ma di noci. 20:37. 36. Cappa di noci. Non è che sembrava molto, un minuto. Infatti. Un minuto fa sempre fretta. Brava. Comunque, ma quando c'è la penna sei bello flippante, Breco? Registrato il Breco, avanti. Buonasera, Franco Nozzo Cispa di Valedoria, un controllino per favore. E cos'è che ti fa ridere? Vena, io. Vai bravo, Vena. Come? Come? Scusa, me lo dai questo controllo? Franco Cispa. Ehi, capo, questo controllo me lo dai? Certo che te lo do il controllo. Ehi, buonasera, un controllo radio. Franco Cispa, Valle d'Oria. Radio 5. Il segnale qua tutto direzione Via Pasqua, direzione Valle d'Oria. Dai, dai. Segnale sempre 9. E Via Pasqua è uscita per la Montimuti, direzione Valle d'Oria, Capa. Scusa, cosa ti ha fatto ridere poco fa? Sei in vela. Come? E sei in vela. Oh, sbagli, eh. Non sto sbagliando, non ti preoccupare. Ma io ti posso garantire che non sto sbagliando, eh. Io ti posso garantire che non sto sbagliando io, eh. Va bene, ti ringrazio per il controllo, ce la risentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. E te, Mario? Mancate di Tiburia. E mancate di Tiburia, eh? Di seguire non è andata, dai. Ehi, bolassa, la prossimo io. Campagna a fa. Va bene, vera. Poi se partite ci sono, Mario. Ma dove? Non sei uscito. Sono uscito, guarda bene che sono uscito. Adesso sì. Bella bu. Quando non esci ti dico non si esci, non si esci. Ti ho chiesto se ci sono partite stasera. Non lo so, non mi interessano a me le partite. Gappa. Non lo saggio. Adesso, questa settimana, questa domenica c'erano le macchine e la Ferrari ha fatto la doppietta. Si conferma. Quest'anno mi sa che la Ferrari non ce n'è per nessuno, eh. Ah, lascia perdere. Diciamo che questa qui era la prima gara, poi inizia a diventare tosta, vai, che c'è coso che va a porta lo stesso, è nero, l'inglese. Io della McLaren, poi abbiamo anche Schumacher e McLaren, e infatti, e avvenire va, come tanto, come si comporta. Comunque, anche Schumacher, questa è la prima gara dopo 3 anni che era fermo. Ha dato battaglia, ma Hamilton già è bravo abbastanza, ci darà filo la torcia, Cappa. Regretto Hamilton. Vabbè, sarà tutto da vedere. È tutto da giocare in questo Gran Premio. Cappa. Ma chissà che nell'ultima volta di agosto davvero, però ho paura che alla prossima sarà ancora più dura, Cappa. E anche Basse, ho visto che si comporta bene, dai. Cappa. E andrà bene, vera. Beh, mi pare che va, mi gira, mi impiso e mi mangio anche cosettas. Come? Che io sto già iniziando a spezzegare. Ah, vagabba, ce ne ascoltiamo più dopo, allora va, che io faccio qualche cosetta lo stesso. Ciao, buona carica, vai, a dopo. A dopo, buona carica anche a te. Gappa. Che gli scoltoni, buona carica, Io ne ho 16 di mannaie, una più bella dell'altra. questo è veramente, dopo hanno la faccia di merda di dire, uno si compromette, ci ricapo e li ammazza, entra dentro casa, come si legge nei giornali, poveri, perché li avrà fatti fuori? Ma secondo te questa c'è da campare? Ma secondo me invece non ti danno nemmeno niente, secondo me ti danno un premio a te. Guarda, è che non riesco a beccarlo, prima che lui facesse tutto questo, il fratello, lo beccavo sempre con la macchina, quando ero col motocarro lo beccavo sempre con la macchina, non sono più riuscito a beccarlo, ti giuro, siccome anche ho un pezzo di merda guidato che non sa guidare, ti giuro che un colpo di cassone alla parte della guida altezza del finestrino, il giorno che lo becco glielo do di tutto cuore, ma proprio veramente, proprio, bello in pieno, eh. Cappa di positivo. E se mi dici anche il giorno che lo posso trovare, un colpo di barra che lo posso dare anch'io, sempre dalla parte della gru, per me non ci stanno problemi. Glielo ho giurato, lo sai che nasconde anche la macchina, non la mette mica in zona qua, si nasconde, non passa più qua, cioè io non lo vedo più, due anni che non lo vedo più. Ma il giorno che fate il rifaglio, io pizzicheggio in soco con un motocarro. Ti ricordo un'imbarrinata di cascioni, cazzo, se non lo vuoi sapere diretto. Bisogna ripagare sempre con la stessa moneta, mi Pierpa. Arrivate a un certo punto, basta adesso, veramente basta, perché finché si scherza, però poi la cosa comincia a diventare antipatica. Ma lo sai che sono scivi, ma non sono scivi bene, perché lui quando usciva di casa faceva il pezzo del senso unico a scendere qua di fronte a noi. Cazzo, non parcheggia manco più la macchina lì, la parcheggia nell'altra piazza entrando là a butti vuoti, perché non passa neanche più il mare, la sua gliela facessi una pensata, chi su me la fate pagare. Il giorno che te che sbaglia, per una cosa o per l'altra, che passa da lì, è fottito con le mani sue, è tutto che dice il senso unico, cazzo, era molto bello già. Ma Antonio è ancora giù, nell'altro canale. No, sta venendo subito. Vabbè, là. Cazzo, gli altri mi deve fare fino. Ma non conviene, fregatene. E pensiamo alla salute. Dico bene, dottor Rum. Dici bene, parli meglio di un libro stampato. Dove sei parlato tu in chiesa? Perché? Perché sentivo la cosa con tipo cattedrale, bro? Perché devo stessi parlando da confessionale? Così, sì. Ah, va bene adesso, va bene. Va bene, fratello del mio rumbo. Adesso ti sentiamo forte e chiaro. Dopo fa sembrava stessi confessando i tuoi peccati, ne? Siete sovramorati. Cappa. Che passava? Abbiamo capito, confessionale. Ora sono passato io. Oh, scusate un attimino, eh. Allora, mi dico una cosa. Giuseppe? Sì, avanti, Pierpa. Ho notato, no, che in questi giorni anche Gianni mi ha fatto notare la portatore su una cosa nella torre, no, che ci sono gli operai che hanno montato anche delle croci lì nel prato, ecco, perché c'è gente disoccupata. Ci sono delle strade in Sardegna che ne muore uno alla settimana come mio, tipo la Via Sassari. Ci sono un sacco di altri problemi, se occupate qualcosa. Non so se avete letto il giornale stamattina, uno si alza, apre la Nuova Sardegna e legge di che cosa si occupano i nostri parlamentari. E a quanto pare, bella notizia e bella grande, un prendevo una pagina, i nostri parlamentari stanno mandando in legge alla Camera dice che vogliono togliere, vuol dire, la carne di cavallo dalle tavole e mettere il cavallo nell'ordine del gatto e del cane come animale domestico. Adesso dico io, con tutti i problemi che ci abbiamo, soprattutto in Sardegna, i nostri parlamentari ci mettono la carne di cavallo al palto, la legge, per non essere macellati. Ma si può? Sì che si può, certo che si può. Ecco perché io continuo sempre a dire, noi in confronto a loro siamo un esercito. Noi diciamo cittadini, popolo italiano, no? E continuiamo a farci governare, a obbedire a questi quattro stronzi che ci sono, sia a Roma che qui, in regione, come può essere regione Sardegna, regione Sicilia, regione Latico. Ma lo sai, noi la forza che abbiamo, essendo uniti, tutto il popolo, a calci in culo in acqua, che avevamo buttati via quella gente qui. Intanto continuiamo ad abbassare la testa e dire sempre di sì. Grazie, popolo. Già, uno rimane il proprio superiore, la carne di bandire, fare la legge per bandire la carne di cavallo, ti immagini? Io so che è contento qua. E chi è contento? Manuela. Manuela? Chi sarà contento, Manuela? Diciamo che a me la carne di cavallo non mi fa niente, se c'è o se non c'è non mi interessa. Ma semplicemente che i nostri parlamentari si mettono a discutere di bollire la carne di cavallo quando in questo momento abbiamo quasi 2500 disoccupati lì sulla strada che non sanno come dare da mangiare alla famiglia. Ci sono quelli lì nella torre da più di un mese quanto ci sono già nei correggimenti, tu lo sai. E loro vogliono fare, vogliono portare in Parlamento una legge per bandire la carne di cavallo, ma certamente che la bandiscono perché i poveracci fra poco non avranno né quelle né altra carne da mangiare. Va, è quello sì. Si attacca alle cose irrisorie, cioè sono molto più importanti, quello che vuoi dire tu è quello. Purtroppo ci sono molto più di queste bende. Io non lo so, te l'ho detto già, non so da quanto sono lì, però secondo me i parlamentari invece di parlare di carne di cavallo e di bandire questo e bandire l'altro farebbero meglio a cercare un po' di soldini per far lavorare le industrie e per lavorare chi è lì che sta soffrendo malamente, che è la carne di cavallo. Scusami, domando che venga a carrare, guarda. Di che parte è, Giuseppe, forse tu lo sai meglio di me, questa qua che sta portando la legge in Parlamento e del PD cos'è, destra o sinistra? Ma PD o PDL? PD, mi sfugge il nome adesso del deputato che ha portato in Parlamento questa legge, mi sfugge il nome, comunque trattasi di donna del PD. Se del PD è del Partito Democratico ed è di sinistra. Ah, di sinistra, Beh, no, io non me ne intendo perché la politica è l'ultima cosa che mi salta per la testa proprio tanto. Però buono sapersi che è di sinistra. Uno è PD, l'altro è PDL, Popolo delle Libertà. Ma tanto sono tutti quanti precisimi per Papa, che siano di destra, di sinistra, di centro, di coso, tutti al rogo li avrei messi quelli, ma veramente e il coso me l'avrei messo io. Papa lui di luogo tutti quanti, un po' di benzina, tutti quanti riuniti, fatti un fascio come quando fanno per il fuoco di Sant'Antonio, imbevuti bene di benzina, in maniera che non se ne salvi uno di questi delinquenti, perché appartengono, diciamo, alla categoria dei delinquenti, questa gente qui, no? E via, fatti fuori perché tanto non te ne fai niente. E un popolo, quello che abbiamo noi, di governatori che abbiamo abbiamo qui, sia in Sardegna che in Italia, è un popolo destabilizzante. Si scannano alla televisione facendo finta di fare, però quando le telecamere sono spente, sono a cena assieme con la gente di Birma. Lo so, Giuseppe, lo so. Però porca miseria, sono cose che danno fastidio, cazzo, con tutti i problemi che ci sono, quella sarebbe la mala sorte, l'ultima proprio. E invece, cazzo se vuoi, che cose, che sciocchezze, porcate, l'animale qui, l'animale là, ho letto quella pagina intera, guarda, da vergognarsi, non lo so qui come ti si può andare a fare cose del genere, cazzo. Con tutti i pensamenti, vabbè, ma va, soprattutto in questo momento qua, in Sardegna, non si salva né questa parte né l'altra parte. Non lo so, riprendi già. Bene. Più lungo riprenda. Per me, possiamo anche la portarti io qua, guarda. Mettila. Spartino, scusate. Perfetto. Ma sta ascoltando che si va, no, ho votato sui 40, mi stavo ascoltando. Io ho chiamato, non avete risposto. Guarda, se hai chiamato a me già non ti potevo rispondere perché c'è la portante. Vabbè, ciao Giuseppe, ciao Gianni. Ciao Luca, ben sentito e ben trovato. Non lo so se Gianni risponde, abbiamo provato a invocarlo alcune volte, però mi sa che vediamo un attimino, dai, fai. Doppio room a Bisese. Doppio room è sparito. Sono staccato la luce di torna. Che cappa, ho abbassato le serrande. Le due, la stessa sera comunque c'è la pace dell'alternata. Ragava, non so. Ma mi sa che come opzione mi sa che regge più la seconda. Chiedo conferma al buon Vela. Dica cosa? È mancata l'alternata oppure le saracinesche si sono passate? Di Gianni? Cappa. Si è lontanato la parecchia. Lo stavo dicendo io che stasera è un bijou davvero. Sentivo sempre l'alternata qua quando parlava Babbo, adesso l'ho risolto il problema, dai. Giuseppe. Avanti Vela. Te lo spiego io, se non Antonio non riesce a spiegare che tu non capisci di che cosa sta parlando. Allora, questo periodo ci avevamo tra noi due, tra quando parlo io e quando parlo lui, ci avevamo un'alternata bestiale. Cioè quando parlavo io sentivo tipo quel rumore come c'era a te. Quando parlavo con l'altro era così da noi. E si è trovato il periodo perché io dicevo sempre guarda c'è qualche cosa. Siccome lui è il più vicino alla televisione della nonna, no, la nonna ci aveva un cavo che era tutto malmesso e adesso oggi però l'alternata è scomparsa perché non entra più lì. Ho capito, quindi siete intervenuti sul cavo di petrolio. Sì, l'ha sostituito il cavo di petrolio, l'ha riparato. Perché lui ha preso l'antenna in pieno e qua essendo il cavo tutto a massa, ecco, gli creava l'antenna, la televisione gli creava questa alternata quando parlava sopra, noi due però, Meglio che l'avete risolta, cavolo, e sempre un problema in meno è che c'è, perché in radio, guarda, quando si creano i problemi è sempre un enigma. E anche per farti capire che alle volte basta uno niente che ti crea un fastidio, eh. Cava. Luca è tutto. Ehi. Stacco. Non riesco a cavare una tosta. poco, ci fate 6 ore, 8, poco sia le 5, mamma mia. Oggi mi sono messo Giuseppe, proprio con amore l'ho fatto. Ho visto il difetto, l'ho messo a posto, ho fatto un po', un paio di modifiche come si deve. Adesso va tutta la grande, vedo che sta andando bene. Vogliamo richiamare a Gianni, Gianni. Punto. Sì, io sono rientrato adesso, mi sono fatto un giretto sul 10 ed è tutto sparito come per magia. Sono andato sul 5, idem e compattante. Allora ce ne possiamo rientrare? Ah no, c'è il portatista. Oh, lasciamo perdere quello lì, per l'amor di Dio. A sanità, adesso. KK, Gianni è sparito. Gianni sicuramente è chiuso per l'inventario. Ma non credo che si sia addormentato così, eh? Oh, quando mai? E perché ieri come si è addormentato? Ma, no, non credo che si sia addormentato. Muy bien, muy bien, bien. Speriamo bene. Sicuramente si è dovuto allontanare per qualcosa. K di positivo, K di positivo, l'amico Vera, mannaggia. Ma oggi all'ora di pranzo non ci stava nessuno sul 5, mi sono svolato in lungo e in largo, non ho trovato nessuno. Ma davvero l'ho fatto anch'io, ma non c'era nessuno. K, e altrettanto ho fatto alle 6 quando sono uscito, niente, ho beccato queste due di Cagliari e basta, mi hanno detto i pollici. E tu cosa gli hai detto? Rapidamente. Ma tu è. Bisogna risolverla subito la cosa, tanto è inutile stare lì a dare troppe spiegazioni e via via. Tanto mi sono dovuto avvitare per conto suo. Allora Luca, sei nel confermatore tu oggi? Ora non ho avvitato. Rifiniture per qua, rifiniture. Ma che si risolve da lì da chi me lo manda a tu io? C'è la vostra squadra adesso quelli che stanno facendo marciapiedi. Capito, ci sono? Quelli che stanno facendo marciapiedi dietro al mattatoio. Sono la vostra squadra? Beh, boh, non so se il comune è quello. Sono la vita esterna sicuramente. Per fatto. No, noi siamo in via. Aspetta, signora. Noi siamo in via Levamedi, via San Vincenzo, anche di San Vincenzo. Oh Luca. Luca. Dimmi. Ascolta, e vedi un pochino se riesci a contattare qualche geometra per il restringimento di due marciapiedi qui dove abito io. Sono altri tietti ci sono, ui. Ah, restringimento mi. Io ne ho visto una faccia o l'altra. Ok, allora mi informo, dai. Ma lo sai perché Luca? Te lo può dire Pierpaolo, qui hanno fatto i marciapiedi nella via due marciapiedi nella via di casa che sembrano due piste di Formula 1. Passa la fretta. Cappa. Ci mi domando io che quel coso del, come si chiama, l'assessore, sarà l'assessore a corso che si chiama la viabilità, no, che ha autorizzato ad allargare quei due marciapiedi, fare 4 metri alla base, 4 metri alla base e stringere la carreggiata. Deve essere un buon tempone anche quello, K, perché effettivamente se li avessero infatti in un'isola felice noi in questa via. Ma guarda, forse avrebbero fatto, visto che l'hanno fatta anche a senso unico, magari se facessero da mettere di dietro da una parte avrebbero risolto il problema, Non so. Però prima che vi toccassero i marciapiedi si posteggiava sia da una parte che dall'altra, passavano anche i camion in questa via. Non ho capito perché abbiamo fatto una cosa del genere. Ma sicuramente hanno preso una di quelle cantonate più grandi di loro, anche perché hanno tappato tutti i tombini con la trachite. Loro hanno preso, hanno scavato, secondo loro hanno spianato e hanno tappato tutti quanti i tombini nuovi. Ah, pure i tombini hanno tappato. Adesso visto che sono tutti segnati in rosso, devo essere con una bomboletta di vernice rossa, ci sono delle strisce rosse. E come l'hanno risolto la vernice? Poi, ti sto dicendo, guarda, che se l'avessero ripresa questa via qui, saremmo stati veramente bene. Ritornare 4-5 anni indietro, come erano prima i marciapiedi, che il posto per i bambini c'era per giocare, ne avanzava pure. Ti sto dicendo che qui posteggiavano anche furgoni grandi, lì per là. Passavano anche i camion qui. Posso fare richiesta di qualche loro che al comune, che ne so io. Ma no, più che altro forse l'hanno fatto a quanto ho saputo io, per mettere a lavorare un pochino di gente. Però sì, mettili a lavorare, rifai di nuovo il coso, piastrella, fai tutto quello che vuoi, però la larghezza del marciapiede lasciala quella che è. Invece no, hanno spostato le aiole, hanno spostato le piante, ma mi fatto tanto di casino. Un attimo Giuseppe. Ma no, questa è un casino davvero. Lo so che è un casino davvero, Alto, però e noi cosa possiamo farci? Questi sono arrivati qui con le macchine, c'erano dei cosi, come si chiamano quelli piccolini? Quelli tipo cosa, caterpillar, però piccolini, no? Col martello hanno fatto, hanno sfasciato, hanno ripreso tutto coso e hanno allargato sia dalla parte dove abito io e sia dall'altra parte del marciapiede, però hanno allargato troppo, cioè in quei marciapiedi case si può fare case la corsa di coso, anche di macchine. È un bel casino, comunque ce ne sono marciapiedi sfasciati, molte volte vanno a riparare quelli buoni e quelli sfasciati lasciano stare. Infatti qui ci hanno rovinato a noi toccando i marciapiedi. Adesso vediamo se ci mette una buona parola Luca, mi vengono qui, tagliano un pezzo e via. Ma che travaglio, è travaglio per tutti. Quello è un buon lavoro per tutti. Ma se Maria, già non è poco niente, poi sta male, disoccupata. Oh, io, in che mondo stiamo finendo? E ancora niente. Aspetta, anche io provo a avvicinarmi sul 10 a vedere se becco Mario o Falchetto a dirgli che siamo qua. Poi nessuno. No, non ci sta nessuno. Erano sul 10, io ogni tanto riuscivo a capire qualcosa di quello che stavano dicendo, però mannaggia, quando non si può entrare, non si può entrare. Il babbo dice che erano andati a fare carica, però pazienza, dai, cosa si vuole fare, tanto anch'io, non è che mi trattenga più di tanto, perché domani mattina si trabacca. ed è giusto andarci belli presti al lavoro, sia di coso, sia di persona che di mente. Domani dove si va? Cagliari? No, Cagliari ancora no, per fortuna, mamma mia, un'impresa è quando si va giù. E domani sono qui nel circondario, Alghero, Ittiri e tutte quelle zone lì. Non lo so oggi? No, oggi ero proprio Sassari. Ma Cagliari quando ce l'hai? Sì, Cagliari ce l'ho quando c'è richiesta lì a Cagliari, speriamo il più in là possibile. Senti, buonanotte, vedi. Buonanotte. Chi è che augura la buonanotte? Avanti. Grazie, poi siamo aiutati, a voi vi siete in 40. Boh. Sai che? Mannaggia la Marina, Giuseppe da questa parte, non sai quante volte sono sceso a cercarvi sul 10 e sul 5, mannaggia. E noi siamo qui perché purtroppo il Guerrera ha sempre quel problema là di quel bastardo con la portante. Gappa, buonasera, ben entrato Giuseppe, buonasera anche Antonio. C'è sempre un volto artista, no? Ci sono due problemi, te lo spiego io a parte. Uno è di coltetta di Riccardo, diciamo così, e l'altro è che Giuseppe deve salire di più per non sentire il rumore. È tutto qua. Vabbè, ma sono nel 40, va bene, so che poi è entrato con le imbecille, sono dovuto andare là, capito? Ah, cava. Bene e poi bene. Beh, ma che? I te fare te in vita, i te senarata. E i te senarata? Beh, posso modo vende, ma non puoi porsi due, ma che dici? Io giro qui a casa qualche, ogni tanto cercavo di entrare, però non ci riuscivo perché il segnale che avevo era 9.40 qui a casa e non riuscivo a modulare. Ogni tanto, come attenuavo appena, riuscivo a tirare fuori a te e Mario, mi è sembrato Mario, non mi vorrei sbagliare, però non ne sono sicuro. Era Mario Mansell, sì, e poi la compagnia di Domenico che stava andando verso Olbia. Niente, l'ho accompagnato fino al bivio di dove si chiama di per andare a Siri e poi lì ci siamo persi un po' d'acqua. Cappa, Miserios per caso? Esatto, era, diciamo il dopo Miserios per andare a Olbia, il bivio Siri. Cappa di positivo, una bella insaccata comunque, complimenti, bella, alla grande, cate, è distante da qui, è distante e poi c'è da calcolare anche che ci sono delle, lasciamo perdere queste che abbiamo noi qui all'ingresso di Sassari e queste piccole montagnette che sovrastano, però andando verso quella zona lì ce ne sono tante altre e non le tralasciamo il promontorio che c'è lì il soprannome Smirta. Infatti, poi mi è capitato, ti può dare conferma anche Massimiliano Bulldozer, stavo parlando addirittura con aspetta, quei paesi caldi, Napoli, mi viene in mente il nome. Le Bahamas? Esatto, alle Bahamas addirittura. Stavo conversando con la Gringhella delle Bahamas, iniziava, mamma mia quanto siete due voi italiani. Cappa di positivo, hai visto? Ed è bello, complimenti, agganciare anche queste storie qui. Bene, QSO gliel'hai chiesto? Gliel'ho chiesto, ma non me ne ha voluto dare. Vigliacca, cazzo, se no sarebbe stato un bel colpo quello. Eh, ma ti stiamo chiedendo il QSO e lì, no, non dare il QSO, italiano non ti do il QSO, siete stato, ne va di là, ma non si può dire qual è. Comunque poi tanto Massimiliano sul 16 ci siamo salutati e vabbè, ripetenti Giuseppe. Per me era, ti ripeto, l'obiettivo riuscire a modulare e sentire soprattutto, perché ti ripeto, stasera eravamo alla grande qui. Okay, ma sapete quel rumoraccio, no? Canta di positivo. Io va a finire che, ti ripeto, se becco più mi comprometto forte. Ma Giuseppe? Dico che se riesco a scoprire da dove viene e so che sono sicuro che conoscendo il carattere che ho mi comprometto alla grande. Cappa, mannaggia però. Ma non si può chiamare anche l'esco, può vedere un po' di cosa si tratta, e loro non lo sanno più di lui. Cappa, io adesso bisogna che prenda una giornata di ferie che possa coincidere con alcune persone che ho contattato, dopodiché niente, la registrazione ce l'ho e via. Tanto domani devo telefonare a Cagliari ad alcuni amici per vedere un pochino cosa si può fare. Dopodiché poi vediamoli qualche, perché ti ripeto, cioè adesso basta, ma basta veramente. Beh, ci credo Giuseppe, che anche tu stai pagando una concessione, non è che stai abusando stai pagando una tassa in cui devi poter anche modulare, no? Sentire quei rumoracci che si sentono, dai, non vanno bene queste cose, no? Non vanno bene, mannaggia, perché mi rompono le scatole. Rompono le scatole, guarda, al massimo, perché sempre stato cordiale con tutti, cortese con tutti, però adesso basta. Vabbè Giuseppe, niente, chiederai qualche controllo lì a Lesco, poi vedi un po', loro se ne tirano fuori subito e all'istante cosa è e cosa non è, capito? Scappami positivo. Antotto, riprenditela tu e poi fai girare, vedi un pochino se è rientrato anche il tuo babbo, così ci facciamo un giro di ruota e poi ci salutiamo tutti quanti. Forse è rientrato. No, io stavo dicendo una cosa poco fa a Falchetto. Se tu gli hai chiesto il QSO a quella ragazza, c'è un miracolo che non ti abbia mandato anche a quel paese. Dunque, il QSO è forse interpretato in due siamo fatti nel rileva, cioè, sentivo più rileno, e poi mi diceva, italiano duro, duro, duro, non capire, non capire. Quattro e panchetti. Ma che, potevi chiedere anche un'altra cosa, volendo. E che? Ma con questo risposto non puoi ridere anche tu, mannaggia. Non è quella cosa che pensi tu, potevi chiedere anche il QSL. Dove ho ubicata la fazione? qui zona Sacro Cuore. UTC non è UTH. UTH è posto di lavoro oppure zona d'ufficio e quelle storie lì, posto di lavoro. UTH è posto di lavoro. K. Va bene, va bene. Adesso siamo allo stampa di Albano, così me lo memorizzo mentalmente. Mentre quello che dici tu è il QRA pacchetti. QRA è abitazione oppure l'indirizzo? Ah, QRA, sì, è vero, è vero, è vero. C'è anche QRA familiare. K, però quello lo devi specificare, perché se tu chiedi il QRA è l'abitazione oppure l'indirizzo da dove stai modulando, mentre l'altro il QRA lo devi proprio specificare, QRA familiare e componenti della famiglia, no? Mentre il QRK è la comprensività del segnale trasmesso. K Roche. Va bene, bene. Adesso siamo, su che canale siamo? Siamo canale alfa, così? No, sul 41, perché? 41 normale. Normale. No, 41 normale. Non ce l'ho 41 normale. Non lo stai dicendo. Devi girare come e metterlo in banda e come va sul 45. Ah, io invece non sono sollevato. Ho sollevato il tastino della banda alfa. No, vai sulla banda e metti ad A1 qualche minuto. Ah, calma, adesso vediamo. Allo? Come me lo segna? Allo? Adesso sei bello forte. Perché prima più basso arrivava? Un pochino più compresso. Oh, adesso è più pulito. Sì, qui avevi molto più pulito, molto più deciso come segnale. K, che segnale ti arriva adesso a te? 9 più 30 e radio 5. K, a tu, a te? K, questo che era attenuato. Ma? 0, 9, radio 5. K. Va bene, allora. Guarda, è uscito in alfa. 40 alfa. Guarda che l'alfa fa male da fumare, che senza filtro fa il ghetto. Infatti, non ero io sul 40, era perché mi sentivo sul 40. Forse ci sentivi, perché siamo lì, cioè, siamo lì. Da 40 al 41, anche se poi in banda E sicuramente ci prendevi, perché anche l'antenna che hai è quella che è, mi hai capito, quindi hai voglia che ci prendi. No. Aspetta, che cazzo la c'è, aspetta. Ma torniamo un attimo, qua con Cecilia. Sì. Aspetta, assistente del tuo casino. K. Che cos'è? Mi si è acceso l'amplificatore improvviso. Ora. Come adesso? Pulito. Giuseppe, perché ho acceso l'internet, no, c'era acceso anche insieme l'amplificatore del 2 più 1, mi è partita la voce, ha detto che ho fatto sordo. Campa, si sentiva qualcosa di forte sotto comunque? Ma che mi fate la recita, tra il piatto, ma adesso che anche me ne va il microfono. Perché anche il volume è abbastanza alto, è partito, mi ha tremato il pavimento. Chi è? Ma sai, mi è successo anche una troppa di volte. Una volta ci avevo il microfono in mano e l'altro avevo preso la bottiglia per me. E come sono andato, ho tolto la bottiglia dell'acqua, la bocca per me. come ho solo da schiacciare qualche parte da con la più scesa la partita in acqua e terra. Che campa? Sono delle poste comunque che ti arrivano che non te le aspetti e quindi posso capire perfettamente che fa. Ci rivede ieri, ma non avete tanto acceso, eh. Ma non è che porta. Su che andiamo, ragazzi? Oh, Pierpa. Dimmi. Ma c'è la prova, io poco fa ero sul 40 alfa e vi sentivo. Ma perché se tu sei sul 40 e schiacci il tasto di 10 mega, se vai al 41 lo stesso. Ah, ecco, ecco, ecco. Ma mi stavo dicendo Giuseppe che l'ho compreso però come modulazione. Naturalmente perché non è la cosa più giusta. Diciamo che non è che faccio sto giusto schiacciando quello, però facciamo sempre il 41. Tu anche se sei nel 10, schiacci quello ti porta all'11 normale. Se invece sei sull'11 ti porta sul canale alfa, perché l'11 va nel canale alfa, così il 3, così mi pare che sia il 19 e via dicendo. Se vai su quel canale ti porta sugli alfa, negli altri ti sposta solo il canale. Per esempio se tu sei il 20, schiacci quello, ti porta al 21. Vero, vero, vero, si conferma. Eia, eia, è vero. Invece lo schiacci dove ci sono i canali alfa, i canali alfa, ti porta sui canali alfa. Bagabba. Ho capito, ho capito. Riprendi Giuseppe, fai dirà. Cappa di positivo, l'amico Falcetto. E niente, ritornando al discorso di poco fa, e per quanto riguarda tutte quelle cose che ci siamo detti, bisogna che io mi scriva bene in grande che quando si riesce a beccare qualche collegamento, le QSL, bisogna chiedere QSL, me lo sto scrivendo anche in grande, me lo scrivo sul muro a bomboletta stanotte, QSL. Sì, va bene, adesso se mi pago la tabella vera almeno, capito, me lo memorizzo e ciccia. Brava, la QSL può essere anche una cartolina, lo sai. Ma infatti è quello, il QSL è, in pratica tu stai chiedendo al tipo, la tipo, chiunque sia, che si è riuscito a fare, con quale si è riuscito a fare il collegamento, per essere più precisi, mi stai chiedendo la cartolina che attesta l'avvenuto collegamento, tutto di tutti, perché giustamente ti chiederanno il nominativo, l'indirizzo, la città, il paese, tutte quelle cose lì. Cappa, cappa. Cappa. Ancora, sono troppo freddo. A me non mi dica quando arrivi da su mesi. Un casino che vai, no? Che giù giù. Allora, Giuseppe, vediamo un po'. Se io ti dovessi chiedere il QSY, cosa fai tu? Il QSY? QSY. Allora, QSY, aspetta appena e fammi pensare. QSY, mi sposto di canale. Y sarebbe la Y. Cappa, cambio di frequenza. Proprio cambio canale, dai, io l'ho detto un po' breve. QTC. Ah, QTC, io so che messaggio. Poi bisogna vedere come si interpreta. TH. QTH ci devo pensare un attimo. Ah, aspetta, QTH l'ho detto poco fa. QTH dovrebbe essere tipo posto di lavoro. Posizione della stazione trasmittente. Da dove trasmetti? QTH, posizione della stazione vediamo se ti posso dare la sufficienza, vai. R4. Buona. R5. Ottima. R5 turbo, ottima. Santiago può partire da 1 sino a 9.40, che sarebbe il segnale, sarebbe il decibel 9.40 qui lo va come fortissimo. Ottimo. E se Giuseppe chiede su S? Non sai se ti chiede su S? No, messo no per qua. Sono cose che si adoperano un po' prima per abbreviare. Lo stesso di Santiago. E ti consiglio una volta, si potrà fare così, no? Cerchiamo il nome attivo, tornalo, dammi un S. No, ho capito, abbreviazione di Santiago, ma è più bellino come cosa Santiago. Se per esempio ti chiedo, Giuseppe, ti chiedo Scarpone. Ma sì, sì, anche un fortunistico da lavoro. No, se ti chiedo Scarpone. Non lo so quello qua, quello no. Mi deve rispondere lo stesso, o ti rispondi negativo, oppure mi rispondi Scarpone. Sarebbe? No, lo Scarpone sta per amplificatore radiofrequenza di potenza. Diciamo ancora per noi adesso molte volte non ha sentito il chiamo bracciare la scarpetta, ma in più caso sì, c'è lo Scarpone, deriva la cosa di Scarpone. Fa la domanda a Scarpone, per esempio ti dico, torna lo Scarpone e tu mi rispondi negativo oppure Scarpone. Brava, è una cosa più. Poi non so se ti chiedo spia. Dico. Non sai cosa è spia, ma qualcosa che ti hanno dato, che te l'ha dato. E che cosa? Quel foglio che ti chiedi che te l'ha dato, tu l'hai tolto fuori. Capo. Mi sa che è incompleto, se ti dico spia non lo sai. Bravo. Signore, attenzione, SR per tornare, attenzione. Ma questo lo so, questo lo so. Il QSR, guardata, è la cosa più elementare che ci possa essere a questo mondo. QSR, guardata, è la cosa più elementare, però non riesco a trovarlo ancora, qui mi ferma. È la cosa più elementare che ci possa essere a questo mondo. QSR, diciamo che ti stai assentando momentaneamente dall'apparato. Allora, QSR mi sembra, o no? No, no, QSR è chiamata di emergenza. No, chiamata di emergenza no. Chiamata di emergenza, cosa sono, il 9 e il 12? Il 9 e il 19. Ah sì, è il 19, ma ancora non ho capito perché non si possa modulare in quei due canali. No, adesso già si può fare, era prima che non si poteva fare perché il 9 e il 19 erano i due canali di emergenza, dove prima quando c'erano le associazioni al turno rimaneva uno che era in abitazione, rimaneva sintonizzato sul 9 per le chiamate emergenze, perché prima si adottava anche per le emergenze, per esempio chi era in strada, un centro, una cosa, e dava il coro tramite la radio, ma adesso non si fanno più queste cose. E campa, anche perché l'altro giorno all'ingresso del tempio c'era della musica lì sul 19. E adesso perlomeno questo legno non c'è più. La dice a te QRZ lì. QRZ, c'è qualcuno che mi chiama. C'è qualcuno che ti chiama il QRZ? A fare positivo proprio questo. E cosa prenderebbe adesso cosa? Io dico QRZ, richiesta del nome attivo. Qui c'è qualcuno che mi chiama QRZ. Mentre QRX, attenzione, aspettate un momento. QRT, chiudo, prima della trasmissione. QRM, disturbi atmosferici o elettrici. QRM, disturbi in generale. QTR, orario. E il CQ lo sai che cos'è per farfa? CQ, canale 41, CQ. K, segnale generale di chiamata, si usa quando si desidera parlare, non si sa chi in quel momento è all'ascolto sul canale. Quindi CQ, attenzione, K. CQ. Ma si fa no, DX in inglese si fa CQ DX. Kappa. Beh, Kappa di positivo. Poi non lo so, dimmi tu, se la cosa non è per questo, allora, chi si allora? Padre e madre. Che poi per noi sarebbe padre, per noi è la mamma. X pallone, madre. Ne so, sono preparato. Dai, dimmi un'altra che ci siamo. Ma ne approfitto io, dai, QRT da parte di Falchetto. Chiudo trasmissione. Buonanotte a tutti, buonanotte a te Giuseppe, ci sentiamo tra le prossime. Vela e anche Antonio. Ciao. Ciao Giuseppe. Ciao, qualche, ce ne rispondiamo tutta domani, ciao, buonanotte. Ciao, qualche, buenas noches, e ce la risentiamo tutta quanta domani, buon trappacco, hasta la vista e hasta luego, avanti al tutto. Antonio, c'è? Cappa di positivo, siamo rimasti in due. Abbiamo capito me, ho capito me, è andato, adesso ci butta via tutto dopo che ha finito. Quali positivo, dopo tutta la fatica che si fa per mangiare, poi si deve buttare via tutto. Vabbè, dopo tutto quello si spende. Le cappa. quella la cosa più brutta. E poi si deve spendere anche per quella cosa che devi srotolare dal terreno rotolo. Sai che ti voglio dire, bisogna fare così, prima bisogna spendere prima di tutto, poi buttarlo dentro e poi ributtarlo fuori un'altra volta. Peccata, se la pinaccia è, e cosa si vuol fare, mannaggia, non è che tanto metto. La nostra vita è quella, se non mangiamo, come dice il proverbio, sacco vuoto non regge, e così siamo noi. Deve essere che quelli della Panò hanno preso lo spunto da noi, perché noi prima spendiamo, ma mangiamo, poi lo ributtiamo fuori, così fanno con l'acqua, no? Prima ci mettono in rete l'acqua pulita, diciamo pulita relativamente. La consumiamo e la paghiamo, poi la ributtiamo, la usiamo, la sporchiamo e la ributtiamo nel gesso e ce la rifanno pagare depurata. E cappa di positivo, perché anche la depurazione c'è quello scritto anche nella bolletta quando arriva a Pierpa. Ah, quello è un dilemma, allora, dunque, c'è quella prima dicitura per dire 100 metri cubi acqua potabile, bombo per lire, non so, a certe ore del giorno deve essere che scende d'oro, perché ha un prezzo, certi non lo aspettano certi orari, o fino a, per dire, a 30 metri cubi ha un prezzo, a 40 metri cubi ha un altro, a 50 metri cubi ne ha un altro ancora, perché deve essere che scende. Fino a un certo tanto scende, non so chissà che cosa, che acqua sia, dovrebbe avere tutto un prezzo, ma insomma, quella è da discutere. Poi c'è la dicitura sulla bolletta, fognatura, attenzione, fognatura, un'altra, metri cubi, non si sa che cosa, in base a cosa venga calcolato, non lo so. Poi c'è depurazione. Insomma, acqua pulita, fognatura e depurazione, tre voci paghiamo. Beh, quello è normale, no? Perché se era come la prima che ti facevano pagare solo l'acqua che consumavi, arrivati a un certo punto, nelle casse loro ne entravano pochi di soldi. Allora accaduto tanti intrusi, tanti giri, tante cose che non vengono a dirlo. Come ad esempio i ricorsi adesso che bisognerà fare sulla lettetta urbana, non so se l'hai sentito. Sì, l'ho sentito, ma quello che volevo dire io è perché l'acqua che butta in fognatura, cosa riconsumiamo noi a loro? Per farcela pagare fognatura e poi per depurarla che loro la rivendono quell'acqua, dovrebbero pagare a noi loro che la riciclano e la rivendono, perché mica che quell'acqua depurata a noi ce la fanno pagare a noi e poi la fanno pagare agli altri per dargliela pure, non ci ho preso. Infatti è proprio per quello che ti dico, se loro quelle voci lì non le avrebbero messe, quella qua lì nessuno l'avrebbe pagata, depurata, hai capito? Però come fa questa gente qui a ingrassarsi il culo? Hai sentito anche i gestori di Abanoa, ogni seduta che fanno, i gettoni di presenza che si prendono? L'ho sentito già, guarda, è una cosa vergognosa. E a tutto poi c'è il terminale anche di questa cosa, che paghi l'IVA al 20% per avere l'acqua nel rubinetto pulita, 20% di IVA per la fognatura e 20% per la depurazione. La flessiva è proprio la cosa, la truffa italiana. Beh, fatti conto, sono 20 per 3 sono 60, così è. Un 60 per 3 è una bolletta insegnata solo in IVA. Allora, già ci siamo capiti perfettamente quello che stiamo dicendo. facendo noi. Se facciamo il conto di quello che paghiamo di IVA e di quello che paghiamo realmente, di quello che abbiamo consumato, guarda, sarebbe da denunciarvi subito, perché se di acqua stai pagando, che ne so, 20 euro, e 60 sono di IVA. Diciamo che a parte il discorso dell'IVA è una cosa micidiale, perché chi ce l'ha nel dietro di chi paga l'IVA, alla fine dei conti è sempre l'utente finale. Per esempio, ti faccio una cosa per il mio lavoro. Noi acquistiamo, allora, viene dalla società, portata dal camionista, il camionista la paga con l'IVA e la paga la ditta, il camionista la dà a noi, che noi le paghiamo l'IVA, perché ci viene tutto fatturato, e quindi diciamo che poi l'IVA non scarichi niente, assolutamente, anche a fine anno si è sempre di sotto. Quindi c'è già nel dietro chi la rivende, ma quello che è il finale proprio, che per esempio arrivo a casa tua, ti do lo scontrino, tu lì nel tuo sei proprio quello che non scarichi più niente, te lo metti nel dietro, perché sei quello che ti carica tutta l'IVA. Cappa di positivo. Infatti io quello che non riesco a capire è il perché qui noi a casa abbiamo un portabombola che è piccolo, no? Perché c'è il lavello, poi naturalmente c'è il gruppo del coso che scarica da lavandino, e più che bombola da 10 kg non riusciamo a farci stare. A meno che, come ci hanno detto, non si fa proprio l'incasso per il portabombola da 15, ma quello non è che mi interessi più di tanto, perché anche con la bombola da 10 si tira avanti. Ma perché devo pagare una bombola da 10 kg 25 euro? Cioè, ma cosa mi stanno dando questi qui di oro dentro? Lo spiego io, perché Sardegna è così, il signor Moratti, che è il detentore del monopolio della Sardegna, si va a pagare un più di su gas che vale del tavolo qua tu, si va a pagare quasi a 3 euro. Cazzo, è figurati tu. Quasi a 3 euro. Aveva Giuseppe, quanto la paghi tu la bombola? 10? Siamo prossimi ai 25 euro, forse mi tornerà 50 centesimi e qualcosina. Da casa? Vado io a prenderla, perché cerco di risparmiare qualcosina, mi hai capito? E passando me la prendo io e via, la prendo giù alla Teroce. Ho capito. Sai tu quando sono visto le cose sul giornale, no? Partiti, controlli le cose, ma guarda, la fanno ridere, perché fanno ridere, no? Perché a te ti tengono sotto controllo, che ti smuovono anche i peli che c'hai sotto nel QSO, no? Tanto per intenderci. Sono partiti contro una cosa. Allora ti dico una cosa, per chi non lo sapesse, no? Che il negozio, al finale del prezzo, se dovesse rispettare un listino prezzi, per esempio, a noi per dire la bombola viene a 21 euro, noi potremmo caricare fino, per legge questo, potremmo caricare fino a un massimo del 16% sul prezzo, cosa che non lo facciamo nessuno, di attenerci al massimo del 16%, e tu pensa che a Sassari si viaggia dal 3 al 4%, tanto per intenderci, no? Figurati tu se metti il 16% di carico di guadagno sulla bomba, non fa più nessuno, siamo tornati dritto come il traulambaro al confronto a 20 anni fa. Però queste cose non si sanno, ma i signori della Guardia di Finanza hanno avuto il coraggio di andare nel cortile per il negozio per vedere se erano pompati gli listini. Però non sono andati dal signor Moratti, non ci sono andati a controllare il prezzo della benzina, del gas e di tutto quanto, con non ci sono andati. Perché non sono andati invece alla fonte a vedere come sono pompati i prezzi e non ai negozianti? Sono andati ai negozianti a rompere le scatole, capito? E campa di positivo per qua, ma nessuno ci vanno, non so perché, perché sanno benissimo che trovano sempre, sempre degli ostacoli, gente con le palle, avvocati buoni e tutte quelle cose lì, hai capito? Perché non credo che Moratti abbia ad esempio l'avvocato da due soldi che ho io, quindi vanno dalla gente debole dove magari trovano il piccolo pelino nel nuovo, una qualsiasi cosa, anche un errore di battitura, di uno scontrino, una qualsiasi cosa, e lì si rivalgono, perché è sempre il più debole che deve pagare qui in questa società. Oh, Giuseppe, te lo dico io il perché. Perché per impegnare tutti quegli uomini che hanno impegnato a buttare via i soldi, no? Quelli sì che sono soldi buttati davvero, impegnare forze per fare una cosa già fatta perché, come tu, non so se lo sai, ma come tutti i prodotti petroliferi per i fornitori, forse non lo sai, ma c'è la raggiunta d'acconto sulla vendita anticipata, cosa che loro sanno già per segno prima che ti consegnano la merce, cosa tu stai consumando e cosa stai pagando, perché paga anticipatamente la puoi mandare la cosa. Forse non ci siamo compresi, Giuseppe. È una cosa, un controllo, che quello lì è già nelle mani loro. Come fai ad andare a controllare il negoziante, a sprecare altre forze, altre risorse? Aiuto! Arrivato a un certo punto, se stai parlando così vuol dire che, non lo so, sicuramente questi non sanno manco il lavoro che stanno facendo, perché se già, come dici tu, loro il controllo lo potrebbero avere già sulla carta, per quello che mi hai detto tu poco fa, che cosa sono venuti a fare di nuovo a controllare, a perdere tempo. Beh certo, se sai che la fonte, è già così preso perché viene fatta la ritenuta, si chiamano ritenute di acconto sui beni così di. Hanno una dicitura esatta, adesso non mi ricordo. In pratica, per esempio, ti spiego, no? Il fornitore prima di arrivare alla botta della benzina, da dove viene servito, deve fare per forza il versamento. Deve fare il versamento anticipato, prima fa il versamento e poi ti viene mandato la merce. Lei viene dato una specie di bolla dove quella lì, una va a loro e va anticipatamente anche. E quindi tu sai già che cosa sta prendendo quello lì, no? Sui prodotti petroliferi non fuggi da nessuna parte, dove scappi? Non capisco perché, cioè fanno un controllo a che cosa? A vantaggio di aver fatto il controllo e aver controllato dei negozianti dove li hai già controllati prima. Allora invece è davvero cosa, eh? E poi vanno a rovinarli, se ritrovano magari qualche bombola in più, gli fanno casino e vanno a rovinare il poveraccio che sta lavorando. Ma perché non vanno e si sparano uno per uno? E campas, perfettamente d'accordo con te Antonio, io ripeto a dire quello che ho detto poco fa, col più debole possono fare la voce grossa, possono trovare mille cavilli pur di attaccarsi, perché sanno più debole, mi hai capito? Certo ne possono andare, che ne so, su Moratti, su un'altra, ma anche su un'altra persona che può avere il monopolio lì, di queste storie qui, perché non gli fanno un baffo, mi hai capito? Invece sono proprio dai piccoli che vanno a rompere le palle e poi magari c'è anche il rischio che li possano anche far chiudere, perché poi quando cominciano questi a fare verbali e di una cosa e dell'altra, casi tipi non esci più, quella gente lì sai quando ti entra dentro casa ma non sai quando esce. Infatti, ma tu figurati che ti impongono, impostano loro per avere il controllo più facile anche per loro, no? Perché mica sono fessi quelli, no? Per avere un controllo proprio adeguato, loro ti impongono che tu non puoi scaricare più di 1000 kg pratica una bola non può superare i 10 kg, può essere inferiore, ma se c'è un solo chilo di più, per esempio dice, vabbè, mettimi un'altra bombola, mettimi un'altra, scaricami un'altra, se arriva oltrepassa i 1000 kg, per esempio, 1010 kg, no. Se anche al controllo della bola, se ti trovano 1010 kg, ti chiudono e chi te l'ha scaricata passa il casino di brutto. Solo il controllo della bola che va a loro, che qualcuno va a loro, non è che va da nessuna parte, va a loro obbligatoriamente. E se ti acciappa il muro nel controllo, fai che non te lo controllano oggi, te lo controllano anche durante il mese. Anche durante il mese ti possono bloccare tutto. Perché loro vanno sul sicuro, noi abbiamo un controllo che non dobbiamo stare neanche a contare molto, mica sono fessi loro, hai capito? E poi ti fanno questi pezzi qua che ti mandano i controlli di che cosa? A buttare via altri soldi della società, ecco che cosa è. Tutti in galera! Che hanno detto tutti in galera? Giuseppe? L'ho sentito anch'io. Comunque sì, non fanno un attimo altro discorso perché giustamente funziona così, anche perché se poi una coppia delle bolle, della bolla d'accompagnamento, va loro, il controllo se lo fanno lì, non devono stare a rompere le balle più di tanto. E poi la casa collegati a loro direttamente e li fuggi e la guerra è una ciupola di venire lì, puzzi non si rinforzia. È inutile, è sempre l'anello debole quello che deve pagare più di tutti, per qua. Come in tutte le cose, e da lì non si scappa. io le cose che sto vedendo ultimamente, per carità, è meglio niente. Cioè, ma proprio dove ti giri, non hai una via di scampo, Non c'è via di scampo. Nonostante tutto, comunque, diciamo che qualcuno esce lo stesso fuori controllo e ancora non hanno capito che li pizzicano, Beh, quello è normale che fa, perché tanto non la paghi adesso, magari te lo fanno dopo 4-5 mesi, che gli passa quella bolla d'accompagnamento sotto mano e poi le paghi tutte. E non è una bolla d'accompagnamento, è proprio, oltre la bolla di consegna che ti fanno, ma è una bolla fiscale che va una a te, e la devi tenere. Una va a chi te l'ha portata e una va a loro, deve andare a loro per forza, loro mi consegnano, mi pare che sia ogni 15 giorni. E dopo che le consegnate che ti fanno il controllo, possono passarci anche un mese, col. Ti lasciamo fare i cazzo che invagliati, esci, via, finita. Sì, e vai a lavoro a turni, con chi sa niente. E dove vanno a evadere tasse con milioni di euro, tu li vedi tranquilli, ma manco ci vanno, ma manco ci va quella gente lì a perderci tempo con quelli che cominciano a evadere qualche milioncino di euro, mi pierpa. Dici, cazzo, chi vive da contare troppo, non conviene. Semplicemente quando l'anno scorso c'è stato il controllo, tra l'altro ti volevo dire Giuseppe, che è stato detto in pratica da tutte le parti a questi signori qua, no, che dovevano andare a vedere la fonte, non dettaglio, che il problema era la fonte. Il signor Moratti già era apparso anche sul giornale, che aveva subito dato la minaccia, prendo e tolgo via la raffineria della Sardegna, subito, Beh, quello è normale, no? Ci mancherebbe altro, ecco perché ti dico che quelli sono intoccabili, perché basta che dicano una parola, se ritirano tutto quanto i signori. E noi ci vanno più a controllarlo, cazzo, anche da noi quando cominciano a temere i murovisti. Non è che vanno a fare il loro dovere se non fondono, basta che quello li alza appena la voce, dici no, lascia stare, allora via, giù botto e più piccoli. chiaro, infatti erano un mese non vedo le scatole, è uscito ancora il suo giornale, tutto zitto, tutto silenzio. Una potenza è quell'uomo, case, giriamola come vogliamo, case per chi su case, e quello è meglio di Berlusconi. Intanto ormai sono tutti così, visto, rompo le scatole, con questo o quella con l'altro, subito la fiat non la fa, figlia buca tutto in Polonia, io, e così sono tutti questi qua, grandissimi magnacci. Se c'era la barba, io ti dico 9, che ho la minima cosa, subito prendono e portano via tutto, dall'Italia e dalla Sardegna, tanto mi pento. E calma, è perché la gente, massa manovalanza, si guadagna molto, però si spende poco, e controlli zero. Infatti ogni tanto già ne brinca qualcuno in aria, e non li guardiamo i telegiornali, ma... E io via. Adesso mandate vecchia, torni qui gira, adesso io non lo sapevo, ma ho saputo di questi che sono lì su quella torre, aspetta, guarda, ma veramente una cosa vergognosa. Calma, lì a Porto Torres, guarda, la cosa secondo me va a finire che degenera, io l'altro giorno sono passato, ma è per carità, povera gente. Hanno messo anche le croci nel braccio, e per quanto ho potuto vedere io non è che si stiano occupando molto di questi qua e altri, non se ne fregano altamente. Già l'ho notato anch'io, Pierpa, ci sono cose ben più importanti a cui pensare, prima di pensare a questa gente qui, come ha detto anche il nostro Cappellacci, no? Dice che prima era solo, che era così ed era gola, però quello visto mi pare già se la fotti. Sì, ma c'è cuore a omissima poi, e dopo la vai accanto a me. Ma è una cosa vergognosa, siamo passati notte lì e più di una volta. Nella zona industriale di Porto Torres, una cosa vergognosa, ci sono parecchie cose che sono ormai abbandonate, con tutto illuminato, che si butti anche via la corrente. Sta rovescia questa cosa, questa è cosa che paga, ormai paga lo Stato, chi è che lo paga, sono, non c'è più fabbrica, non c'è più niente, ma tutto con illuminazione da fare invidia anche a una città intera, per chilometri e chilometri, vedi tutto illuminato e non c'è più niente, nelle zone almeno dove non c'è più niente, ed è un'illuminazione che quella per notte consuma chissà quanti milioni di euro consuma in una notte, tutta l'illuminazione sprecata, buttata via, non lo so. E campa di positivo Pierpa, lì già l'ho visto anch'io, ed è lì a perdita d'occhio, luce, come dici giustamente tu, da illuminare un'intera città, però purtroppo siamo in Italia, funziona così la cosa, però allo stesso tempo che cosa succede? Che tutti vediamo, tutti siamo zitti, però tutti siamo contenti, non si lamenta nessuno e si tira avanti. Che non si lamenta nessuno, ma questa è anche una cosa che dovrebbe accorgersi di anche di tutto questo spreco, che io vedo che so perfettamente che sono tutte ferme quelle industrie, non c'è niente, e c'è soprattutto lì nella parte più in fondo, non so se l'hai vista, che c'è un'illuminazione che veramente la fa invidia, tutta roba buttata, che non cosa sta a fare illuminato, che non vuoi manco più un animale, ti vedrei. Lo so Pierpa, però che cosa si può fare? Cosa si può fare? Noi ci possiamo stare anche tutta la notte qui, parlando, discutendo le cose. Perché tu cosa credi che i nostri amministratori non li abbiano visti tutti questi sprechi? però chissà che il giro di mangia-mangia che c'è intorno anche qui, quella storia lì, perché se non le poi lì non arrivano le bollette, come fai a lucrarci sotto? Ci hanno lucrato case per 50 anni e adesso case tu vuoi che così di punto in bianco spengano tutto. Ui, Pierpa. Montato in una certa maniera perché cosa si chiama inquinamento e cosa così semplicemente. Tu devi vedere se vedono le imboccature delle ciminiere, devi vedere tutto quello che c'è dentro, che cos'è, chissà la porcheria che forse sarà polvere di cemento, che ne so, comunque è una cosa mastodontica da vedere. E me lo posso immaginare. Io non so, io hanno portato via tutto all'estero. Essere fregano di tutto e di tutti per farfa, senza mettersi il problema di chi ha famiglia, di chi ha mutuo, di chi è giovane, di chi gli manca qualche anno per andare in pensione, proprio non gliene può fregare di meno a questa gente qui. E poi la maggior parte della produzione so che l'hanno spostata a Cagliari, quindi alla grande. Infatti c'è qualcuno che vuole entrare avanti. Avanti su 41 siamo tutti ricchi, avanti. E allora il dito se lo mettesse laddove non batte mai il sole. Regione, grani in mano, battoni d'antenne. Cava, quale città sei tu? Sono un computer. Ah, sono un po' chiuso. Dire solo una cosa, i piatti da cui sto mangiando qui a casa sono stati comprati con i nostri soldi lavorati. E fortuna, come ha avuto tanta gente, di avere qualche piccola, ma dico piccola eredità, nel senso una stronzata qualsiasi, no, manco quella io ci ho avuto di fortuna. Così siamo noi. Io dico questo, se non ci fosse stato lavoro non avremmo mai avuto forse quello che abbiamo. Diciamo lavorare il giusto, lavorare onestamente e lavorare soprattutto serenamente, perché se manca la serenità nel lavoro manca tutto, mio Luca. E ai tempi d'oggi ho l'impressione che di serenità sul lavoro ce ne sia ben poca da tutte le parti. Grazie alla cosa volontaria, Giuseppe, ci mancherebbe. Lavorare onestamente, capito? I soldi vanno sudati, capito? Non sono di facili. Avevo cambiato strada. Tranquillo, sereno, mi ti tocca, non ti può toccare nessuno. Perché sono lavorati e via. E vabbè. Andava via. E dovrà essere un altro giorno migliore. Domani un altro giorno e si vedrà. Tiriamo avanti alla giornata, dai. Beh, mi sa che io quasi tiro il rullo in barca. E vi saluto tutti quanti con l'inchino. Pierpa. Ci sentiamo presto, serena notte, buon trabacco per domani, altrettanto a te Luca, buon trabacco, serena notte, Antonio Bombolo, idem e compattate, ci sentiamo sicuramente domani, dai, o al limite, vediamo di tirarcela sino a domani sera, sempre che, ripeto, qualcuno mi risponda al birichino se ci siete. 144 per Giuseppe, signori e signori, chiusura di trasmissioni, buon proseguimento a tutti voi, ci risentiamo alle prossime. Capo Giuseppe, ha anticipato il soffio, sono le 23 minuti e anch'io stavo per farmi il finale. E saluto 50 a te Giuseppe, a te Luca, a tutti gli avventori ascoltori, ci risentiamo domani alle prossime idee. Io già lo so, Giuseppe, sono in ascolto tutto il giorno sul canale 5. Ci sono sempre quando non tutti Giuseppe, dai, Luca e a tutti quanti, a tutti gli ascoltoni, cioè ce la risentiamo domani, buon 144, per voi e per me, ciao, buonanotte a tutti, avanti Luca. Ciao a tutti, buonanotte, buona giornata, buon lavoro, buon lavoro, e a domani se Dio vuole. Ciao, ciao, ben Paolo e Giuseppe, i gacchi di sonno, ciao, spengo tutto, a domani, ciao.